Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24. Come sapete, ogni sabato e ogni domenica rassegna stampa dei periodici settimanali, mensili, italiani, anche stranieri qualche volta, per consigliarvi qualcosa da leggere. Questa mattina vorrei cominciare parlandovi degli incompresi famosi o meno famosi, perché Focus di settembre in realtà, ma è già in edicola, lo trovate già in edicola, spiega che tutti ci sentiamo un po' incompresi, cioè troppo timidi oppure troppo spaventati dalle sfide, ci sentiamo in qualche modo sottostimati e quindi vengono date delle strategie per riuscire a ribaltare questo sentirsi incompresi, sentirsi inadeguati, sentirsi fuori posto, stravaganti, che, ripeto, secondo alcuni studiosi, alcuni psicologi, colpisce, in realtà interessa il 40% della popolazione, quindi diciamo quasi una persona su due. Ci sono anche vicende di incompresi famosi che vengono ricordate nelle pagine di Focus dedicate appunto alla rivincita degli incompresi. Un incompreso famoso anche perché nostro connazionale fu Antonio Meucci, inventore italiano, emigrato a New York, costruì il telettrofono, cioè il telefono sostanzialmente, era un telefono che era in grado di collegare due stanze, e per anni continuò a migliorare questa invenzione, a rinnovare questo brevetto che era provvisorio perché era più economico e cercava dei finanziatori. A un certo punto non fu più in grado di rinnovare il brevetto, così Alexander Graham Bell lo depositò in forma definitiva 22 anni dopo, nel 1876. Meucci fece anche causa, ma senza successo, e poi morì di lì a poco. Tra l'altro, l'11 giugno del 2002, cioè un bel po' dopo, il Congresso degli Stati Uniti gli attribuì finalmente l'invenzione del telefono, e quindi così, almeno post mortem, parecchio post mortem viene da dire, Meucci fu non più un incompreso. Un altro incompreso famoso fu Laszlo Biró o Biro. E come dice il suo cognome, è l'inventore in realtà della penna Biro, che però fu portata al successo mondiale dal barone Marcel Bich, che è poi, come dire, il fondatore della penna Bic. Non penso che questa sia pubblicità, essendo un oggetto di uso assolutamente comune. Biro creò proprio, fu lui però a creare la penna con la pallina nella punta che consentiva di distribuire l'inchiostro in modo omogeneo, solo che i costi di produzione per lui erano proibitivi. Lui cedette il brevetto a Bic ridusse i costi, commercializzò poi la penna. E Bic accumulò, scrive Focus, una fortuna, e Biró invece morì in miseria. Questo un incompreso che aveva ragione di sentirsi tale in qualche modo. E poi altri incompresi famosi, ad esempio Kafka. Kafka scrisse, diciamo, in vita le sue opere, ma rimasero sempre inedite, e fu solo grazie al fatto che il suo amico Max Brod non ottemperò alla richiesta di Kafka di distruggere i suoi scritti, ma invece li fece pubblicare. Fu solo grazie a questa disobbedienza di Brod che noi oggi possiamo leggere i capolavori di Kafka. Tutto questo appunto su Focus, gli incompresi, strategie per non sentirsi incompresi, per non sentirsi poco valorizzati o compresi dal mondo. Magari per il rientro un tipo di strategia, di allenamento di questo tipo può esserci utile. Thank you. E questa è The Duke nella esecuzione del quartetto di Dave Brubeck, Dave Brubeck Quartet. Il disco e il CD, solo la mia anagrafe mi impedisce di ricordarmi CD e di parlare ancora di dischi, oramai si tratta di un termine un po' desueto. Il pezzo si chiama The Duke ed è lo trovate nella antologia dei miti del jazz. Come sapete, da qualche settimana il Sole 24 Ore ogni giovedì presenta un volumetto con un CD dedicato ogni volta a un jazzista diverso. Questa volta è Dave Brubeck che è conosciuto dai più, anche da chi non è appassionato di jazz, per la famosa Take 5. L'abbiamo ascoltata proprio ieri, tra l'altro ne abbiamo ascoltato un ampio tratto. Ha una storia poi molto interessante, perché anche lui a suo modo può ritenersi almeno inizialmente un incompreso. Questo signore nasce da una insegnante di pianoforte che naturalmente gli insegna i primi rudimenti del piano, ma per una sorta di sua pigrizia non impara a leggere la musica, almeno nella fase iniziale della sua vita. In realtà era così portato, probabilmente, che era in grado di ripetere gli esercizi semplicemente vedendoli eseguire da qualcun altro e poi riproponendoli esattamente come dovevano essere fatti. Arriva anche al college, cerca di laurearsi in veterinaria, ma viene scoraggiato e indirizzato, per fortuna diremmo noi, alla facoltà di musica. Solo che di nuovo alla facoltà di musica si accorgono che Dave Brubeck non legge la musica, non è in grado di leggere la musica, e così in realtà dovrebbero cacciarlo dall'università. Ma succede una cosa, una di quelle cose, diciamo, fortunate, di quelle circostanze fortunate della vita. Si parlò, infatti, si legge nel volumetto che accompagna appunto il CD dei Brubeck, di cacciare Brubeck dalla scuola, ma parecchi professori vennero in sua difesa, sottolineando la sua conoscenza della tecnica di composizione del contrappunto. Allora il dipartimento trovò questo compromesso, gli disse più o meno: noi ti consentiamo di laureare in musica, però tu ci devi promettere di non insegnarla mai, perché potresti causare un possibile imbarazzo alla scuola. Quindi Brubeck in qualche modo si laureò sotto condizione, perché non in grado di leggere la musica, o comunque di leggere adeguatamente la musica. La storia naturalmente è stata un po' diversa. In realtà Dave Brubeck è diventato il miglior rappresentante della sua, di quella che ha attualmente la University of the Pacific. Ha creato un Brubeck Institute che ha proprio lo scopo di impartire un'educazione formale ai musicisti di jazz più promettenti, ha donato i suoi archivi all'università, quindi in qualche modo è stata la persona che, pur laureandosi sotto vincolo, sotto la condizione, giurandoti che non avrebbe mai insegnato musica, ha poi invece dato più lustro, più notorietà e anche più fondi alla sua facoltà di musica. E allora torniamo invece ai giorni nostri, dalla giovinezza di Dave Brubeck e dalle sue iniziali incomprensioni. Veniamo invece alla evoluzione del web, è un tema che sempre sui settimanali ha grande fortuna, sia Panorama che L'Espresso. L'Espresso dedica diverse pagine al fenomeno Google, e tra l'altro anche ai social network in genere, occupandosi appunto di Google Plus, che ha aperto la guerra dei social media, così la definisce Alessandro Longo. C'è una interessante tabella proprio sull'Espresso che ci ricorda qual è la potenza di la diffusione nel mondo di questi social network. Dunque, Google Plus è uscito da meno di un mese e ha già 20 milioni di utenti. È diventato di colpo il principale antagonista di Facebook. Facebook è il social network più importante del mondo, ha 750 milioni di utenti, concentrati soprattutto in Europa e in Nord America. Poi c'è LinkedIn, che è un network di tipo professionale, ha 100 milioni di utenti, e poi c'è Twitter, che è il secondo social network del mondo, che ha 250 milioni di utenti. Non sto a darvi le distinzioni, chi usa abitualmente questi Social media sa più o meno come funzionano, conosce le differenze. Chi invece non fosse particolarmente informato e volesse saperne di più può ricorrere appunto all'Espresso, a questo contributo di Alessandro Longo all'interno dell'Espresso di questa settimana nell'articolo Siluro a Facebook. Ma di web poi si parla anche su Panorama. Panorama, Carmelo Caruso fa una rassegna naturalmente che non pretende di essere completa sui siti più bizzarri, perché in rete ovviamente c'è un po' di tutto, la rete da questo punto di vista è un enorme bazar, e tra questi siti diciamo curiosi ci sono c'è un sito per scoprire gli errori che sono celebri, gli errori celebri dei film, quindi le sviste, gli svarioni storici e non solo dei film. Ci sono dei siti per generare qualifiche altisonanti quanto assolutamente inutili. Ci sono i siti per la meditazione, ci sono i siti per coloro che amano il cinghiale piuttosto che altri cibi o altre cose ancora. E c'è anche un sito, lo leggo appunto da questo articolo di Carmelo Caruso, si chiama 2m40.com, è un sito dedicato ai camionisti che sono rimasti incastrati in un certo sottopassaggio a Parigi. Non so bene quale possa essere l'utilità di questo sito, però mi sembrava curioso segnalarvelo. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Allora, vi segnalavo questo sito un po' curioso per camionisti che sono rimasti incastrati in un certo sottopassaggio. Un'altra curiosità che non viene invece da Panorama, viene da Focus, è già in edicola Focus di settembre. Qual è il colore di auto più diffuso? Se qualcuno sta viaggiando, sapete che talvolta anche per trovare qualcosa da fare, se ci sono bambini in macchina, si prova a contare i numeri delle targhe piuttosto che le macchine di un certo colore. Ecco, vorrei darvi qualche indicazione per scegliere un colore in qualche modo vincente. La cromia prediletta, leggo da Focus, è l'argento, risulta per il 26%, una macchina su 4. Poi ci sono altri colori come il nero, che sono il 24%, quindi quasi lo stesso che l'argento. Il bianco e il grigio si prendono un 16% ciascuno, e invece le macchine rosse sono soltanto il 6%, seguite da quelle blu che sono il 5%, il rimanente 7% è il giallo, oppure verde, oppure arancione, altri colori ancora. Tutto questo però, attenzione, se siete negli Stati Uniti, perché se siete in Europa alcuni di questi dati vanno corretti. Il nero è al 24%, cioè una macchina su 4 è di colore nero, una macchina su 5 è di colore grigio e una macchina invece il 17% è di colore argento. Poi va a scendere il bianco, il blu per il 9%, il rosso e infine il marrone al 5%. Tra l'altro, secondo una ricerca che è stata realizzata da un'azienda che produce vernici, anche vernici per auto, in Turchia si segnala che viene preferito il bianco e in Repubblica Ceca invece viene preferito il blu. Altri sondaggi hanno poi confermato che anche in Italia comunque i colori sempre prediletti sono il nero o l'argento, che risultano i colori più diffusi per le automobili. Restiamo in qualche modo in tema di trasporti per una segnalazione dal venerdì, il venerdì che avete trovato con Repubblica. Venerdì scorso, l'altro giorno, Davide Vannucci ci segnala che è stato avviato il progetto per il ponte più lungo del pianeta. Consentirà ai pellegrini africani tra 3 anni di raggiungere velocemente le città sacre di La Mecca e Medina. La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo fonti interne al governo del Cairo, che sono state citate da Der Spiegel, settimanale tedesco, il trentennale progetto di collegare Egitto ed Arabia Saudita con una gigantesca struttura sul Golfo di Aqaba vedrà finalmente la luce. Ora però sale la preoccupazione tra le nazioni del Medio Oriente, soprattutto Israele e Giordania. Israele è ostile e per la prima volta da quando è uno stato indipendente dovrebbe infatti fare i conti con una strada che collega via terra gli stati arabi circostanti senza dover attraversare il suo territorio. Questo ponte, spiega sempre Vannucci sul venerdì, dovrebbe misurare 32 chilometri quindi 7 in più di quello che unisce il regno di Abdullah con il Bahrain, condurre gli automobilisti dalla città egiziana di Ras Nasrani, vicino a Sharm el Sheikh, alla città saudita di Ras Hamid in soltanto 22 minuti. Il Consiglio Militare ad interim, che come sappiamo gestisce in questo momento il potere al Cairo, per promuovere uno sviluppo economico che stabilizzi appunto l'uscita dall'era di Mubarak, ha deciso di sbloccare questo piano, piano che era stato concepito dallo stesso Rais negli anni 80, ma poi era stato abbandonato per motivi di sicurezza. Tutta l'opera dovrebbe costare circa 5 miliardi di dollari, ma dovrebbe essere coperta in gran parte dai pedaggi che verranno pagati dai pellegrini, perché questo collegamento aumenterebbe appunto i flussi religiosi dall'Egitto verso l'Arabia. E quindi oggi ci sono 1,5 milioni di egiziani che visitano l'Arabia, 750.000 sauditi che percorrono il cammino inverso, e quindi basandosi su questo flusso di persone attuale, quindi senza la presenza di questo ponte, i costruttori sono convinti di poter rientrare in tempi relativamente brevi delle spese che dovranno sostenere. E cambiamo completamente argomento, ma restiamo in qualche modo all'estero. Prendiamo GQ di agosto. Tra l'altro questa settimana è uscito in abbinamento con un'altra testata, Vanity Fair, se non mi sto sbagliando. No, è così, si è uscito proprio con Vanity Fair. Su GQ appunto, da Alberto Vaccaro, una segnalazione dalla Corea del Sud: una scuola per padri. In Corea del Sud si tengono dei corsi per uomini assenti in famiglia, che vengono costretti appunto a iscriversi a questi corsi dalle loro mogli. Il deficit paterno, scrive Vaccaro, sembra essere un fenomeno particolarmente acuto nella Repubblica di Corea, tra l'altro dove le punizioni corporali sono state una pratica accettata per una lunga stagione, non solo nell'esercito e nelle scuole, ma anche in famiglia. E allora, per combattere quella che viene definita un'epidemia dilagante di padri rudi, inefficaci e assenti, un college di Seoul, il Durano Bible College, ha creato non ora, ma già dal 1995, una scuola, la scuola dei papà. Serve ai padri che hanno smarrito, non hanno mai stabilito una comunicazione aperta con i figli e con le mogli. Serve ai papà latitanti, a quelli maneschi, a quelli autoritari oppure anaffettivi. Il corso dura 2 weekend e serve appunto per aiutare questi padri a capire cosa siano un marito e un genitore. L'importo del corso è di circa un centinaio di euro e ci sono lavori di gruppo e lavori individuali. La maggioranza dei partecipanti, che sono dai 55 fino anche ai 170 per ogni sessione, hanno un'età molto variabile, dai 30 ai 70 anni, non si iscriverebbe però se non ci fosse l'insistenza o la minaccia delle mogli che spesso sono a un passo dal separarsi. C'è tra l'altro sempre qualche papà che poche ore dopo l'inizio del corso abbandona l'impresa. Perché? Perché, leggo sempre dalla corrispondenza di Vaccaro su GQ, la scuola dei papà non è una passeggiata. I partecipanti non possono né stringersi la mano né darsi pacche sulle spalle per salutarsi, devono abbracciarsi e con delle matite colorate devono disegnare la loro esperienza di padri. Devono scrivere lettere ai figli e alle mogli per raccontare che cosa li lega a loro, che cosa avrebbero voluto fare, che cosa non hanno fatto a causa del lavoro o di altre preoccupazioni. Possono scrivere anche ai loro padri, non importa se non ci sono più, finalmente senza autocensurarsi. E poi ci sono i compiti a casa: individuare le 20 cose che questi mariti amano di più delle loro mogli e quindi invitarle fuori a cena per raccontarglielo. Quindi sono corsi abbastanza esigenti e, come vedete, contemplano vari aspetti della vita affettiva familiare. Tra l'altro questa scuola ha varcato anche i confini nazionali, è attiva ormai in 37 paesi, ha laureato, spiega GQ, più di 200.000 papà e negli Stati Uniti è sbarcata nel 2000, opera in 57 città. I padri, si segnala tra l'altro su GQ, trascorrono negli Stati Uniti mediamente meno di mezz'ora al giorno. Si capisce che una proposta del genere possa trovare sicuramente successo. Restiamo sulla stessa testata, su GQ, perché c'è una bella intervista a Eric Abidal. Eric Abidal probabilmente non è noto a tutti gli ascoltatori, perché si tratta di un giocatore di calcio, di un difensore, ma in realtà non vogliamo parlare di calcio. La sua storia è esemplare in qualche modo, ed è una bella storia, perché questo giocatore è stato operato di un tumore 2 mesi prima della finale di Champions League. È un giocatore del Barcellona, ha giocato la finale di Champions League, ha vinto, ed è stato lui che, per desiderio degli stessi compagni, è stato il primo poi ad alzare la coppa. In questa intervista, che viene realizzata da Riccardo Romani, racconta alcune cose sia della sua carriera, sia soprattutto della sua malattia, di come ha deciso di operarsi, e poi racconta anche qualche particolare di quelli che fa piacere, insomma, ritrovare. Dice ad esempio: ti dico la frase che non scorderò mai, la prima che mi viene in mente se ci ripenso, è del professore che mi ha operato. Io mi ero appena svegliato dall'anestesia, lui mi ha detto: ciao Eric, ci vediamo a Wembley. Io ci vado di sicuro e tu quella sera ci sarai. Pensavo fosse matto. Sana follia terapeutica, prosegue Romani, visto che il Barcellona era solo ai quarti della Champions. Ma, come dice Eric, questa storia era già scritta e il narratore adora i colpi di scena. Perché? Perché succede questo: un'ora prima di scendere in campo contro il Manchester United per la finale, Eric Abidal non sapeva che avrebbe giocato. Guardiola, che è l'allenatore, ci ha mostrato gli ultimi filmati, ci ha dato le ultime raccomandazioni e ha letto la formazione. Nessuno ha battuto ciglio, tranne me, ovvio. Allora io ho cercato Pujol. Pujol è il capitano del Barcellona ed è la persona a cui Abidal in quel momento stava sottraendo il posto. Quindi Guardiola aveva deciso che avrebbe giocato Abidal e non avrebbe giocato lo storico capitano del Barcellona, Pujol. Io, dice Abidal, ho cercato Pujol con lo sguardo, sono andato da lui e gli ho chiesto: ma perché non giochi? Tu lo sapevi che ti avrebbe tenuto fuori. Lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: io adesso non conto, quello che conta sei tu, non preoccuparti di me. Capisci che capitano abbiamo? Ti rendi conto? Finale di Champions, ti mandano in panchina e tu fai coraggio a quello che ti sostituisce. Questo è il Barcellona. Né sapevo, come prosegue Abidal, che avrei sollevato la coppa. Tutto è successo in fretta, prima che potessi capire. Ti rendi conto? Io ho avuto un tumore, mi sono operato, ho giocato la finale di Champions e ho alzato la coppa, e tutto questo in 3 mesi. Cosa posso chiedere di più? E allora, dopo la vicenda di Abidal, restiamo ancora sui testimoni, sulle cose notevoli del nostro tempo. Vi voglio segnalare che da giovedì proponiamo con il Sole 24 Ore una collana che si chiama I grandi fotografi dell'agenzia Magnum Photos, il nostro tempo raccontato attraverso le immagini. Ci saranno dei volumi dedicati proprio ai protagonisti del mondo della fotografia. Da giovedì trovate, il primo volume è dedicato a Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson è stato il fotografo che ha catturato appunto tanti volti del Novecento, del secolo scorso, proprio nei suoi scatti. E poi Robert Capa, l'autore di quella famosissima foto del miliziano della guerra di Spagna. E poi ancora ci sarà nel terzo volume Ferdinando Scianna. Da qui ogni giovedì con il Sole 24 Ore, questa la nostra nuova proposta, che appunto comincia verso questa fine di agosto e poi proseguirà nei mesi successivi. Oggi invece, come oramai è tradizione da qualche settimana, trovate sempre con il nostro quotidiano il racconto d'autore. In questa uscita Edgar Allan Poe, con 3 donne, appunto un racconto che ha 3 figure femminili. Poi, tra l'altro, parlavamo di incompresi all'inizio di questa puntata, a suo modo ha avuto delle incomprensioni, tra l'altro è stato espulso dall'Accademia Militare di West Point, ha avuto anche dei rovesci, diciamo, non semplici da affrontare. Tra i suoi ammiratori, lo ricorda la quarta di copertina del volume che trovate con il Sole, ci fu anche Charles Baudelaire, che lo chiamava il mio doppio, il mio simile, il mio fratello. Lui, Baudelaire, tradusse e commentò l'opera di Po tra il 1848 e il 1863. E con queste ultime segnalazioni mi fa accenno Peter Bescapè che abbiamo concluso, che il tempo a nostra disposizione è finito, quindi io vi saluto, vi ricordo che se volete scriverci potete farlo utilizzando questa casella di posta elettronica magazine24@radio24.it. Ringrazio anche Viola Bottoni che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Magazine 24 ritorna come sempre sabato prossimo. Buona domenica.